si convenciava sempre state. Amor, dunque, non più vi garba il fatto. Io provvedisco, parto. Ma aggiungeste, prendete questo fiore. Perché? Per riportarlo. Quando? Quando sarà passito. O ciel, domani. Ebbene, domani. Io son felice. Domani vivi ancora. Oh, quanto, quanto amo, quanto, quanto. Io son felice. Bro! questo popoloso deserto che appellano Parigi. E se non più, e fare gioia, gioia. Tre lune, da che la mia violetta ha. piaci per me lasciò novizie, amori e le pompose feste, o voglio magia bezza, vede a schiavo ciascun di sua bellezza. E mor contenta in questi ameni luoghi, tutto scorda per me. Qui presso a lei a rinascer mi sento, e dal soffio d'amor rigenerato scordo le gaudi sue. Valerie, so io. Alfredo il padre, me vedete? Voi! Sì, dell'incauto e a ruina corre, ammaliato da fuori. Con la signore, ed in mia casa, io vi lascia sentire, più per voi che per me. Vuoi modi pure? Tratto in robo in foste. De suoi beni e gli dono vuol farvi. Non lo so fino. Tanto lusso. A tutti è mistero quest'atto, a voi non sia. Ciel che discoprio d'ogni vostro avere, or volete spogliarvi, poi passato perché perché m'accusa. Io non esiste ora ma freno ed io la cancellò col pentimento mio. Nobili se sin vero, come dolce mi sarà il vostro accento. E data ai sensi un sacrificio chiego, terribile cosa chiedeste certo, i brevidi battesi era felice troppo. Dal freddo il padre la sorte l'avvenir domandar qui de suoi due figli. Siccome un angelo Iddio mi die una figlia, se Alfredo nega riedere in seno alla famiglia, la madre amante giovine cui sposo andar che chiedo. Cielo, che mio cercate, offersi assai. Pur non basta. Volete che per sempre a noi rinunzi? E l'uomo. E no, a me. Non sapete che colpita da trovarlo.

Io consumai d'amore Sacrificio sarà del vostro cuore, una pria così nobile sarete fiera allora. Sì, sì, sì. Conosco il sacrificio. Il sacrificio sarà del vostro cuore. Oh sì, un'opera così nobile, un'opera così nobile, sarete fiere. Oh, sospiro, sospiro. Scritto mi lasciava, però l'attendo, tamerai guardarti. E qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani. Tu la calma, ai piedi suoi mi gemerò, di visi più non ne vorrà. Saremo felici, saremo felici, perché tu m'ami, Alfredo, tu m'ami, non è vero. 听众朋友，刚才您欣赏到的是由阿基列斯、贝里托纳、莫奈特演唱，罗马歌剧院合唱团乐团演出，塞拉芬指挥的意大利作曲家威尔第的歌剧《茶花女》上半部分录音。稍后请您继续收听。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 听众朋友，这里是北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的歌舞剧场节目。接下来的时间中，请继续欣赏由阿基列斯、贝里托纳、莫奈特演唱，罗马歌剧院合唱团乐团演出，塞拉芬指挥的意大利作曲家威尔第的歌剧《茶花女》下半部分录音。 Rammenta pur nel duol, vivi gioia te brillò,

ragioni pensate la tutte falsità. La bambina è meglio, la bambina è meglio, la bambina è meglio, la bambina è meglio. Marchese mio giudizio mi farà mentire, Marchese mio giudizio mi farà mentire. Ci sia il cortese invito, grata vi son barone,

niente mio. Tutto fai? Sì. Dunque l'ami? Beh, l'amo. Or tutti a me. Che lo sdegno ho disfogato, m'è sciagurato rimorso.

vuol dirvi? Prevenirvi volli una gioia improvvisa. Una gioia? Diceste? Sì, o signora. Andremo a vedere. E niente, e niente. Andremo. Da questo palpito si attama in pace, senza desistere più non potrei. Ma sangue in vetro, mai liberata, dovendo uccidere, poi di nuovo. Scorda l'affanno, donna volata, a me perdona il genitor. Io ti perdoni, Italia son io, ma sono amor d'andire te. L'uomo vengo, l'angelo mio, mai più dividermi potrà da te. Tutto il futuro ben saprai. Ma tu sa Non lo cerni, troppo rimorso al